Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora ben trovati nel mondo della scuola con Mirko Cavallini Studio e Didaici alla parte tecnica e anche questa settimana con la professoressa Maria Luisa Furlan. Bentrovata. Grazie. Dunque, restiamo abbastanza in tema rispetto alla settimana scorsa, parlavamo della lavagna interattiva multimediale. Restiamo in ambito, diciamo così, tecnologico moderno per parlare oggi di piattaforme per l'apprendimento a distanza o, in forma più sintetica, e-learning. Sì, e-learning, oppure tecnicamente si chiamano anche Learning Management System, cioè LMS, o Content Management System, quindi CMS, sono delle piattaforme appunto per l'apprendimento a distanza. E quindi è un sistema abbastanza nuovo, oppure anche vecchio come metodologia, però utilizza appunto i mezzi moderni. Allora vediamo di capirci qualcosa di più appunto per chi non è dentro la materia. Certo, intanto io ne parlerò per quanto riguarda l'utilizzo nella scuola, però ormai da anni si utilizzano le piattaforme per l'apprendimento a distanza, soprattutto per esempio nell'università, oppure nei corsi di formazione. Tutte le realtà che hanno bisogno di formare degli utenti che magari sono fuori sede, che non sono quindi non possono raggiungere il luogo del corso, oppure che possono collegarsi a tempi diversi, sto pensando corsi per lavoratori oppure per persone che hanno appunto esigenze diverse, utilizzano o possono utilizzare questa modalità, che è un po', si presenta molto semplicemente come se fosse una specie di sito web, solo che a differenza di un sito web è un ambiente controllato, per cui chiaramente non ci possono accedere le persone che non hanno una chiave d'accesso che viene data da chi lo gestisce, ma anche allo stesso tempo chi lo gestisce può tenere sotto controllo tutti gli accessi. In realtà questo avviene anche per i siti web, noi pensiamo di navigare su internet così in maniera più o meno anonima, ma in realtà da qualche parte rimane traccia. Cioè rimane traccia di tutto quello che noi facciamo, dei siti che visitiamo, di quello che apriamo, però in questo caso oltre che traccia di quello che si vede, resta traccia anche di quello che si può fare, e questo è uno degli aspetti interessanti di alcune piattaforme. Perché tante volte se ne parla tanto, però l'utilizzo che ne viene fatto a volte è molto parziale. È un sistema che usate solo voi docenti oppure è aperto magari anche agli studenti? Hai detto che viene usato nel mondo della scuola. Sì, nel mondo della scuola non viene sempre usato da tutte le scuole, oppure molti istituti, soprattutto istituti superiori, ne se ne stanno servendo, perché è un ambiente che garantisce la possibilità appunto di gestire degli utenti, in questo caso gli studenti, in maniera protetta, quindi ovviamente avendo a che fare con dei minori si possono conservare i dati senza che che vi accedano degli estranei, e poi allo stesso tempo consentono delle attività didattiche anche originali, per esempio non solo mettere a disposizione un file da scaricare o un filmato da vedere o qualcosa del genere, come magari uno può fare anche andando, non so, sul sito della radio e può scaricarsi un'intervista, una trasmissione che non ha potuto ascoltare, oppure comunque insomma il testo di qualcosa. In questo caso invece si può anche proprio interagire, mettere degli esercizi interattivi, mettere dei questionari, mettere delle lezioni per cui gli studenti devono completare una parte prima di accedere ad un'altra, e tutto questo, poi di tutto questo resta traccia, quindi viene documentato, e in qualche modo il docente quindi può anche vedere come se fosse lì presente quali sono i risultati del lavoro dello studente. In che ambiti, cioè in che occasione si applica? Perché è chiaro che una classe costituita fa lezione all'interno della classe, magari utilizzando la lavagna di cui parlavamo la settimana scorsa. Un sistema del genere lo vedo forse a livello internazionale, oppure per persone che hanno problemi di salute, ad esempio. Beh, questo può essere una delle possibilità. Se un alunno deve restare assente, per esempio nella mia scuola ci sarà qualcuno che deve restare assente per un certo periodo, e in questo modo può accedere ugualmente a dei contenuti che vengono messi a disposizione. Ma noi abbiamo forse un'idea della scuola che è un po' di qualche tempo fa. Ci sono tantissime attività, progetti oppure comunque lavori. Per fare una ricerca, per esempio, un gruppo di studenti può non incontrarsi fisicamente ma utilizzare la piattaforma. È chiaro che potrebbero anche utilizzare un social network, farsi un gruppo su Facebook e condividere lì i materiali, ma la piattaforma consente anche di, in qualche modo, all'insegnante di vedere qual è il contributo di ciascuno, per cui è un ambiente comunque scolastico. È un ambiente che è controllato dalla scuola, e quindi chiaramente magari i ragazzi si preparano il lavoro sul gruppo su Facebook e poi lo postano sulla piattaforma. La versione ufficiale, e istituzionale. Certo. Facciamo una breve pausa e poi torniamo insieme con questo argomento interessante e moderno. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Tempo dove noi saremo insieme con Gipai. Fidati di mamma, lei sa bene quanto voglio bene con Gipai. Quanti giochi ancora vuoi? Oh, ma in cambio con Gipai. Lasciati collare fino a quando non sarai più grande. Lasciami tornare nei tuoi sogni mentre sei distante. Pungi poi. A milioni di stelle domande farai, ma quante risposte che ancora vorrai, lanciando i pianeti per aria tirai. Non voglio divieti né ora né mai. A milioni di donne il tuo nome dirai, a quante di queste l'amore darai. Un posto a noi dovremo un giorno dolci poi. Lasciami pensare che mi stai cercando per giocare coi cowboy. Coi cowboy. Da Shunji Pai, Shunji Pai. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola per parlare di piattaforme per l'apprendimento a distanza, lo dico in italiano anche se ci sono terminologie inglesi, e-learning o learning management system. Con la professoressa Maria Luisa Furlan stiamo entrando appunto in questa nuova metodologia che ha bisogno evidentemente di una connessione a internet. La diamo per scontata ormai, ma insomma i dati dell'Europa sull'Italia dicono che non è che siamo messi benissimo, non è così scontato che tutti siano connessi. Infatti, poi tra l'altro le nuove tecnologie presuppongono che gli utenti siano dei nativi digitali, come ha affermato qualche anno fa qualcuno. Di fatto c'è qualche studioso, soprattutto nel mondo anglosassone, che comincia a dubitare del fatto che esistano veramente dei nativi digitali, perché non sono mai stati fatti degli studi approfonditi, e per cui la nostra esperienza anche nelle scuole dice che c'è, accanto a alcuni ragazzi che hanno una buona competenza di uso degli strumenti, ce ne sono altri che sanno accedere solo per alcune cose che interessano a loro, non so, il giochino piuttosto che il file Word per scrivere, ma poi fanno molta fatica, non sanno magari semplicemente digitare qualche parola chiave in un motore di ricerca per trovare quello che a loro serve, per esempio, e altri che invece non sono affatto nativi digitali, come gli adulti, se non anche peggio degli adulti, perché magari non a casa hanno sempre qualcun altro che si occupa di introdurli. Però quindi una connessione a internet per lavorare sulla piattaforma è necessaria. Non è detto che serva per forza una connessione ad alta velocità, perché appunto essendo uno spazio protetto, preparato, predisposto dall'insegnante o dalla scuola, se si sa che gli studenti, o comunque se si vuole privilegiare l'efficienza del collegamento l'aspetto anche piacevole magari del sito, con tante immagini, si possono mettere meno immagini oppure alleggerire le immagini, i filmati si possono mettere come collegamento o come file che magari si possono passare agli studenti su chiavetta, questo non è un problema. Però l'importante è che magari gli esercizi questionari possano essere fatti sì online. Questo ovviamente presuppone può creare qualche difficoltà, perché presuppone un collegamento a internet. Con quale frequenza viene utilizzata, ad esempio, all'interno di un anno scolastico? Cioè, non è il metodo ordinario? Allora, gli studi nel settore vedono che l'uso più efficace è quello blended, cioè misto, con delle lezioni in presenza e un lavoro su piattaforma. Funziona poco avere un corso esclusivamente su piattaforma digitale, anche se per esempio alcuni master o molti corsi di preparazione a concorsi eccetera dicono di funzionare così. Lì ci vuole grande motivazione da parte di chi apprende, e quindi e anche poi bisogna vedere dai materiali. Invece di solito, quindi, a supporto dell'attività didattica può essere il corso di approfondimento, possono essere degli esercizi che vengono dati agli allievi che hanno maggiori difficoltà, oppure al contrario agli allievi che magari sono più bravi, per cui magari si può anche aiutarli, a stimolarli a fare qualcosa di più, e in questo modo lo possono fare attraverso uno strumento che magari dà delle possibilità maggiori vista la multimedialità possibile rispetto ad altri strumenti, e quindi viene utilizzata a seconda delle materie, delle discipline, o per un accompagnamento costante della didattica, o per alcuni moduli, oppure anche per aiutare i ragazzi a fare magari delle ricerche, dei lavori di gruppo, invogliarli ad approcciarsi anche in maniera diversa a quello che stanno studiando. Facciamo un paragone: lezione classica in aula con un'interrogazione, ad esempio. È chiaro che se l'alunno Giuseppe sa rispondere, risponde, o c'è qualcuno che gli suggerisce. Possono esistere i suggerimenti anche sulle piattaforme, nel senso che lo studente è identificabile oppure comunque c'è una seconda via? Allora, tutto è tracciabile, quello che avviene sulla piattaforma, che sull'identità della persona non si può giurare, è come quando uno ha in classe due gemelli qualche volta, però è veramente assolutamente, è come quando diciamo è più facile, è più vicino alle prove scritte il lavoro che si fa sulla piattaforma, perché lo strumento, anche l'esito di quello che viene dato è scritto. La piattaforma, per esempio, io sto pensando adesso a Moodle, perché è open source, quindi è gratuita, è quella che viene installata da molte scuole, viene utilizzata anche da molte università, permette anche di assegnare dei compiti agli studenti che loro possono restituire tramite file allegato al messaggio, oppure scrivendo direttamente sulla pagina alcune cose che poi vede solo l'insegnante. In questo caso è chiaro che potrebbe scriverlo qualcun altro, o potrebbe averlo preparato qualcun altro, poi lo studente lo allega e lo invia. Però questo è anche un compito scritto, può essere stato fatto da un amico, un parente, un insegnante, quindi è come un qualsiasi altro lavoro per casa, a meno che io non vada in classe, non vada in un'aula computer con la mia classe. In questo caso faccio svolgere gli esercizi con me presente, e posso chiedere, posso dare anche dei compiti differenziati da svolgere, e sono più o meno sicura che li svolgono tutti lì da soli, o quasi, insomma, perché se stanno facendo cose diverse il suggerimento diventa un po' più difficile. Gli studenti accedono a queste piattaforme con un identificativo, con un codice, con una password? Sì, bisogna che accedano, c'è un codice di accesso alla piattaforma che è regolamentato, quindi l'amministratore deve dare il permesso di accedere, e accedono con una loro password. All'interno della piattaforma ci sono aule virtuali che corrispondono un po' a quelle che possono essere le aule, le classi fisiche, oppure i gruppi di lavoro. Gruppo di lavoro sulla giornata della memoria, che coinvolge più classi dell'istituto, può aprire un'aula virtuale, oppure le squadre di matematica, oppure altri progetti. In questo caso, allora, tutti gli studenti afferenti al progetto ricevono dall'insegnante referente una chiave di iscrizione di cui sono in qualche modo responsabili, e entrano dentro lì. L'insegnante comunque può controllare chi entra, per cui se loro danno la chiave di iscrizione a qualcun altro e questo qualcun altro accede con il proprio identificativo, l'insegnante se ne accorge. Sì. Ancora una pausa e poi di nuovo insieme per questa puntata tecnologica. Dal mondo della scuola. l'ultima parte di questa puntata tecnologica, come dicevamo poco fa, dal mondo della scuola con la professoressa Maria Luisa Furlan. Stiamo parlando di piattaforme per l'apprendimento a distanza, sono piattaforme elettroniche e tecnologiche. Che ci sono anche quelle delle case editrici. Sì, ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, visto che è richiesta l'adozione di libri digitali o libri misti, di cui parleremo la prossima settimana, così intanto faccio uno spot per la prossima settimana, allora alcune case editrici, accanto al libro digitale, mettono a disposizione anche uno spazio appunto protetto, al vantaggio quindi di essere gestito non dalla scuola ma dalla casa editrice. All'insegnante viene concesso di essere un coamministratore con dei poteri limitati, non può stravolgere la piattaforma, però può gestire le proprie aule, le proprie classi, quindi, e allora di solito può fare svolgere per esempio gli esercizi agli studenti che lo desiderano, invece che in formato cartaceo, in formato digitale. In questo modo, per esempio, la correzione degli esercizi in classe non è più necessaria, perché gli esercizi, soprattutto quelli di riempimento, di trasformazione o comunque che richiedono dei procedimenti semplici, hanno un'autocorrezione, e lo studente vede subito se ha fatto giusto oppure no, e eventualmente gli viene segnalato qual è l'errore, o può vedere la risposta corretta in un secondo tempo, a seconda appunto delle impostazioni che dà l'insegnante. E questo è anche uno dei vantaggi della piattaforma, perché permette di dedicare il tempo in classe a delle attività più comunicative. Questo naturalmente dipende dalle materie, è molto utile nella lingua straniera, per altre materie tipo matematica questo non è possibile. È chiaro, perché c'è un procedimento anche da spiegare. Certo, però può essere utile per esempio registrare una parte della lezione e renderla disponibile agli studenti, ma questo non si può farlo sulle piattaforme delle case editrici, che però magari possono mettere a disposizione dei filmati oppure degli esercizi supplementari. Al momento però di solito mettono a disposizione gli esercizi che ci sono nel libro di testo, eventuale materiale supplementare per alunni che possono avere bisogni speciali, per esempio dislessici, e quindi hanno bisogno magari che il testo sia presentato in maniera più chiara, più leggibile, oppure di alcuni accorgimenti particolari, oppure appunto esercizi per allievi che hanno bisogno di recuperare dei prerequisiti o di approfondimento. Questo è quello che al momento c'è, ce ne sono anche di fatte molto bene. Alcune case editrici anche mettono a disposizione un corpus molto ampio di materiali. Ecco, e quindi è un'integrazione al libro di testo cartaceo o all'eventuale allegato che si è aggiunto negli ultimi anni? Sì, infatti, si è passati dal testo cartaceo al testo con un CD, un CD-ROM, eccetera, e a un testo digitale, che però di fatto è più o meno quello cartaceo, solo che ha un mezzo diverso in cui, su cui le parole sono scritte, se vogliamo, e poi con questo materiale di espansione, oppure con questo esercizio sulla piattaforma. Naturalmente dipende dalle case editrici, alcune consentono anche all'insegnante di caricare dei materiali, però siccome sono delle piattaforme utilizzate a livello nazionale o anche internazionale, c'è anche un problema di spazi, per cui non è possibile per l'insegnante creare esercizi nuovi se non di una tipologia molto limitata, mentre con quelle che possono essere costituite all'interno dell'istituto caricando sul server che gestisce il sito un Learning Management System LMS, in questo caso la piattaforma consente anche di fare tutta una serie di attività, dal forum addirittura la chat, se vogliamo crearla, se ci va bene così. Ma il forum per esempio può essere utile per aiutare i ragazzi anche a esprimersi scrivendo su degli argomenti che a loro piacciono, loro li usano magari nei social network. Utilizzare un ambiente protetto vuol dire scolastico, vuol dire anche che l'insegnante spiega che gli interventi verranno valutati, che non si usa un certo tipo di linguaggio. I ragazzi anche imparano una netiquette, l'etichetta da cioè le buone maniere, le buone pratiche da utilizzare nell'utilizzo di internet, dei siti e così via. Hanno i loro linguaggi, evidentemente, il loro galateo all'interno. Queste piattaforme delle case editrici allo stesso prezzo del libro cartaceo o c'è una quota aggiuntiva? Allora, le piattaforme sono generalmente gratuite se l'insegnante adotta il libro, poi le può utilizzare. Sono molto appariscenti, nel senso che l'insegnante che non è abituato a utilizzare questi strumenti, quando le vede dice: oh, che bello, adesso posso andare a controllare, perché naturalmente siccome sulla piattaforma viene registrato tutto, io posso vedere anche le risposte errate che eventualmente lo studente ha dato, eccetera. Però è anche vero che questo controllo, se voglio esercitarlo in modo così puntuale, richiede anche molto tempo. E quindi bisogna vedere che cosa voglio utilizzare della piattaforma. Inoltre le piattaforme possono essere utili, avere uno spazio così può essere utile anche per appunto fare delle attività più creative con gli studenti. Mi viene in mente la web quest, cioè far loro una ricerca, creare una situazione attraverso la quale devono fare delle ricerche, degli approfondimenti. Colleghi di scienze, per esempio, hanno fatto finta che fosse, che ne so, sparito lo scienziato X che aveva scoperto, inventato qualcosa, e hanno chiesto agli studenti di fare tutto un lavoro approfondito, quindi sull'opera di quello scienziato, sul tipo di esperimenti che stava portando avanti, provare a replicarli, eccetera eccetera, segnalare i risultati e così via. I ragazzi si sono coinvolti come se fosse quasi un gioco di ruolo, però allo stesso tempo hanno potuto approfondire una materia. A questo può servire una piattaforma. Adesso col computer è più facile fare copia e incolla, no? Penso alle ricerche, non si faceva copia e incolla, ma si faceva copia e trascrivi all'epoca, quindi bisogna comunque insegnare la metodologia della ricerca ai ragazzi, a prescindere che si usasse la penna col quaderno oppure il computer. Sì, forse adesso è ancora più difficile perché i ragazzi si trovano con tante informazioni, quindi bisogna proprio aiutarli, facilmente accessibili. Certo. Allora, con questo tema lo evolveremo appunto anche la settimana prossima, parlando di un altro argomento affine, sempre con la professoressa Maria Luisa Furlan. A fra 7 giorni. Arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.